Giovanotti con l'estate addosso, siamo subito partiti a bomba con il viaggio, ma a proposito di viaggi, naturalmente non potevamo non aprire questa nuova stagione e questa puntata zero appunto con il viaggiatore per eccellenza. Ci ha tenuto compagnia la scorsa stagione, ma lo ritroviamo di nuovo. Lui è Flavio Alagia di nonsolotouristi.it. Ciao Flavio, ben ritrovato, dove sei? Ciao Beppe, come va? Tutto a posto qua? Io sono a Mantova, nella bellissima città dei Gonzaga. Sono ospite dell'associazione Liberi Sotto i Portici di Castel Goffredo, così anche stavolta cominciamo subito con infilare questo nome in ogni nostra puntata. E sono al Festival Letteratura, cioè al Festival della Letteratura di Mantova, che è cominciato il mercoledì 9 settembre e si concluderà domenica il 13. Oggi è una bellissima giornata, un bellissimo sabato di sole. La Mantova è una città incantevole, uno dei centri storici più curati e più meravigliosi probabilmente di tutta quanta l'Italia settentrionale, una vera bomboniera. Non c'è un angolo, uno scorcio che non parli di antiche glorie medievali, di palazzi signorili, insomma un vero spettacolo, ed è una scenografia, una cornice assolutamente impareggiabile, per questo che è diventato uno dei festival della letteratura più importanti d'Italia. E io ovviamente, che quando c'è da viaggiare, da infilarci il naso in cultura, libri, ma soprattutto bere e mangiare, perché non manca nemmeno quello, sai bene che non mi tiro mai indietro. E raccontaci un po' quello che tu sei, quindi ti trovi all'interno di uno stand, immagino, e quindi vedrai tanta gente che bazzica lì intorno, no? Una delle cose più belle di questo festival è che non è concentrato soltanto in un'unica locazione, ma è diffuso per tutta la città, per tutto quanto il centro storico circa. Noi siamo all'interno del chiosco del Seminario, così si chiama questo palazzo che una volta aveva quella appunto la funzione di seminario. E il chiostro intero è stato offerto a questa associazione di cui dicevo, che si chiama Liberi Sotto i Portici. Liberi Sotto i Portici è un'associazione di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, appunto. Non ce lo dimentichiamo. Ogni prima domenica del mese organizza uno dei più variopinti e variegati mercatini di libri usati, ma non so, cioè che non è un mercatino delle pulci dove ci sono soltanto i libri di seconda mano e di terza mano, è un vero e proprio collezionario di libri anche di antica data. Io che quando vedo dei libri intorno a me non riesco a resistere, mi sono già infilato in tasca diversi volumi, tra cui una prima edizione di Italo Calvino del 1967, tanto per farvi capire un po' di che livelli parliamo. E l'associazione è appunto una dei più grandi espositori del festival, e il festival stesso, dicevo, si sviluppa in tutta la città. Io mi sono già infilato a un paio di eventi di cui magari vi parlerò più avanti, ma giusto per darvi un'idea dello spessore anche intellettuale, etico dell'evento. Qua non si tratta soltanto di libri e narrativa, ma di vera e propria cultura a tutto tondo. Infatti non mancano stand gastronomici, incontri con gli autori di internazionali di levatura mondiale, e tematiche che spaziano dalla narrativa ai viaggi fino a tematiche ambientali e umanitarie. C'è ad esempio l'angolo dell'informazione sul riscaldamento globale, e mercoledì 9 settembre, il giorno dell'inaugurazione, c'è stato anche un intervento di Gino Strada, presidente di Emergency, a Palazzo Ducale, per parlare dell'Ebola, un drammatico fenomeno di cui lui ha avuto un'esperienza molto intensa in prima persona con il suo team proprio in Africa. Quindi insomma un momento di confronto e di dialogo e di discussione su veramente tante tematiche che ruotano sì intorno alla letteratura, ma non si fermano soltanto adesso, prevaricano anche i confini dei campi umani, degli interessi sociali e culturali di tutti quanti. Flavio, allora, sai che facciamo? Ci ascoltiamo un brano, tu tanto rimani lì, e poi ritorniamo subito qui ancora collegato con te, e soprattutto perché ci devi raccontare tante cose, come hai appena detto tu, e quindi un po' di musica e noi ritorniamo subito. 14:20 qui su Radio Stonata. Lei è Beyoncé. È stranissimo dire questo, cioè di solito dico buonasera, buon pomeriggio gente, questo è Il Viaggio, io sono Beppe, puntata zero. Abbiamo aperto con Flavio Laggia di nonsoloturisti.it, che è ancora in nostra compagnia. E Flavio si trova, dicelo tu dove ti trovi, Flavio. Mi trovo a Mantova al Festival della Letteratura, anche nominato Festival Letteratura, tutto attaccato con una L soltanto. E chi volesse approfondire la conoscenza di questo importante evento culturale nella culla della città di Gonzaga lo trova su internet all'indirizzo appunto festivalletteratura.it. C'è ragione Beppe, è strano un po' sentirci così presto nel pomeriggio. Infatti. Di solito facevo almeno in tempo a prendere l'aperitivo prima di affrontarti. Ora mi trovi quasi con le difese abbassate. dopo pranzo, casomai qualche volta ti beccherò. Dopo pranzo. Quindi in fase pennichella. Ma ha degli orari la fiera, il Festival del Libro? La fiera è un susseguirsi di location in cui sono esposti libri divisi per interesse oppure per l'attività specifica degli espositori. In questo caso, ad esempio, io che mi trovo nel chiostro del seminario di Mantova, ospite di libri sotto i portici, davanti a me si dispiegano bancarelle di libri usati recenti, ma anche tanti libri direi delle perle quasi introvabili, libri di una certa fattura. Ci sono dei volumi dell'Ottocento, ci sono delle prime edizioni degli anni 50, degli anni 60, quindi molta, molta varietà anche a livello di prezzi e qualitativo. E poi ci sono tutta una serie di eventi che, come dicevamo prima, si diffondono per tutta quanta la città, anche nei monumenti più simbolici di Mantova, come ad esempio Palazzo Ducale, dove dalle 9 di mattina fino a oggi mi sembra sì, addirittura chiuderanno alle 11, l'ultimo appuntamento, l'inizio è previsto alle 10, e ci sono incontri, dibattiti, oppure anche spettacoli, letture, e c'è anche naturalmente la parte enogastronomica. Io sono fiero di dire che uno degli angoli principe di Piazza Sordello, la piazza centrale di questo evento, è tenuto da una ristorazione che offre tortelli alle erbe amare, che come tu ben sai ormai Beppe sono il piatto tipico di Castel Goffredo, provincia di Mantova. Evviva Castel Goffredo, evviva il tortello alle erbe amare, che quando chiudiamo qua me lo vado a mangiare pure io. Ah, ancora quindi devi pranzare. Sì, aspettavo perché volevo salutarti prima di mettermi a tavola. E poi insomma tanti, tanti eventi. Io mi sono appena discostato da uno dei di quelli che sul fitto programma ho tenuto uno dei più simpatici, che era un incontro su Italo Calvino. Quindi per questo hai comprato il libro, Flavio? Incontri. Per questo hai comprato il libro prima edizione di Italo? Mi hanno un po' condizionato, mi sono ritrovato a non potermi più staccare da quello che ho trovato sulla bancarella. No, questa è una serie di incontri seriali sull'analisi della grafia di alcuni dei più importanti autori italiani. Quindi ad esempio ho scoperto che dall'apertura della M e dal modo in cui scriveva la L, Italo Calvino denotava nella sua grafia una forte lucidità analitica e un animo da sognatore. E poi c'era Silvio Perrella, che è l'autore di un saggio su Calvino intitolato proprio Calvino, che ha portato aneddoti sulla sua vita, sulle sue opere, delineando la figura di un personaggio molto, molto attivo, molto carismatico, ma che nella sua seconda metà di lavoro, di attività, si è adombrato, anche ha lasciato spazio ad alcune problematiche interiori che poi si riversano nei suoi libri, nei suoi ultimi lavori. Flavio, allora io ti interrompo di nuovo, anzi ci andiamo ad ascoltare ancora un po' di musica e poi ritorniamo a tirare le conclusioni di questo Festival del Libro lì a Mantova, e noi ora ci ascoltiamo Robin Schulz qui su Radio Stonata. Parlando e viaggiando soprattutto, siamo arrivati alle 14:28 minuti. Siamo sempre in compagnia di Flavia Lagia di nonsoloturisti.it e fuori onda, ragazzi, non ci crederete, ma stavamo parlando di sport. Flavio si è appassionato alle vicende. Sei un vigliacco, sei un maledetto. Ho detto non farmi parlare di sport. Io che parlo di sport, a questo punto potrei cominciare anche a parlare di genetica o di astrofisica, se proprio vuoi buttarmi in argomenti. Ma non devi, Flavio, ma non sto cercando l'acculturato sullo sport, stavo solo delle chiacchiere semplici. Volevo sapere la tua. A proposito, mi dicevi fuori onda che stai seguendo le vicende delle due italiane che questa sera saranno impegnate al USA Open in America, appunto alla finale, e una delle due porterà a casa il trofeo. Quindi siamo orgogliosi di questo trionfo italiano. Tu che cosa ci volevi aggiungere, Flavio? Beh, per forza, insomma, io che lo sport sia no, mi ci sbatto contro il naso soltanto quando aspetto che comincino a cartoni animati, non potevo rimanere indenne da questo grande evento. Ma adesso, se non ti dispiace, torniamo a parlare di libri e cultura, così almeno faccio bella figura, non comincio a sembrare veramente che mi arrampico sugli specchi. Quindi torniamo al Festival della Letteratura di Mantova, che è iniziato il 9 di settembre e terminerà domani. Tu sei lì ospite sotto il chiostro, vero? Sì, io sono al chiostro del seminario, ospite di Libri sotto i portici. Fra un po' ce ne andiamo tutti quanti a mangiare il tortello amaro di Castelgoffredo, che qua in Piazza Sordello ha allestito uno stand veramente, i profumi si propagano per tutta quanta la piazza. Sono stato già a Palazzo Ducale a vedere, a seguire, anzi non a seguire l'evento che invece si teneva in piazza, ma in Palazzo Ducale c'è ad esempio la biblioteca gotica, che è un angolo veramente molto suggestivo in cui si raccolgono romanzi narrativa di fascino gotico, quindi thriller cupi, storie di violenza, di sangue, di mistero, di orrore. E poi visto che sono qua dalle 7 di mattina, a un certo punto penso fino intorno alle 10 o alle 11 riusciremo finalmente a tirare le tende e tornare a casa, ma qua la festa continuerà. Ad esempio a Palazzo Ducale sempre alle 10:30 c'è Gene Gnocchi con il suo spettacolo Sconcerto Rock, un monologo con accompagnamento di chitarra, cui seguirà poi una sicuramente divertente intervista allo stesso Gene Gnocchi. E invece ad esempio in piazza Leon Battista Alberti vi indico che il professor Stefano Rodotà parlerà con i ragazzi di democrazia, solidarietà, diritti umani, per un puntamento invece di grande rilevanza e di spessore intellettuale. E domani sarà finalmente, insomma, purtroppo l'ultima giornata di questo bellissimo festival, con appuntamenti che si protrarranno dalle 9 di mattina fino alle 20 circa di sera. Io che ho il programma in mano, ripeto, un fittissimo programma, c'hanno 100 libri di palmi, 100 pagine di programma, e ne ho trovati un paio ad esempio che vale la pena citare. Ad esempio alle 14:30 a Palazzo San Sebastiano ci saranno Lirio Abbate e Pier Camillo Davigo, due autori molto impegnati sul tema antimafia, che promuoveranno un incontro, un dibattito chiamato Le Nuove Mafie, che è sempre un momento di grande interesse. Mentre alla Basilica Palatina di Santa Barbara alle 16:45 ci sarà Enrico De Aglio, che il cui incontro si chiama Storie di caccia agli stranieri, e l'autore De Aglio farà un parallelo tra le storie e le difficoltà di accettazione, di accoglimento che viviamo oggi con l'immigrazione che arriva prevalentemente dal Nord Africa, e le storie più o meno drammatiche e tragiche dell'immigrazione italiana invece, che a partire dagli anni 40 e 50 si dirigeva verso gli Stati Uniti e verso altri paesi del mondo ed europei. E poi anche questo evento, che ormai è alla sua 19ª edizione, avrà termine. Ti dicevo anche prima che è un momento, un festival davvero molto bello, perché si diffonde su tutta quanta la città. Inoltre mi è piaciuto andare a leggere la storia e scoprire che è un evento che parte veramente dal basso, un comitato organizzatore di pochi cittadini privati più o meno legati all'editoria, ma neanche tanto, che hanno voluto creare un momento qua nel 1997, anno della prima edizione qua a Mantova, per valorizzare sì la città, ma anche per creare degli spazi di incontro, di diffusione della cultura, della letteratura, di crescita per i giovani, a cui è sempre dedicata una grande attenzione, con eventi e incontri per giovanissimi a partire da 6 anni. Ed è continuata su questa strada. Infatti qua non si trovano grandi etichette editoriali, o meglio ci sono, ma sono sullo sfondo, non occupano la scena centrale, né grandi marchi né grandi aziende. È più che altro uno spazio dedicato, un 4-5 giorni dedicati a piccoli e medi espositori che con passione e tenacia portano la loro opera, portano i loro prodotti su un mercato che, come ormai si sa, non è facilissimo, anzi tutt'altro che facile, quello dell'editoria italiana. Io che mi sorbisco ogni giorno letture, anche se interessanti, ma sempre al computer, sono ben felice di sentire per una volta finalmente lo sfogliare delle pagine e la carta autentica sotto le dita. Ok, Flavio, la prima puntata con te sta per terminare, ma il viaggio continua fino alle 16, ma ci vuoi annunciare poi la chicca che arriverà tra pochissimo, sempre da nonsoloturisti.it? Molto volentieri, sono felicissimo di preannunciarvi che più tardi sentirete Barbara Ciccola, una delle nostre più assidue e valide collaboratrici, che ormai da diverso tempo condivide generosamente le sue esperienze su nonsoloturisti.it. Vi parlerà di una regione bellissima dell'area del Fermano, nelle Marche, e non aggiungo nient'altro, perché sicuramente poi ci penserà lei a darvi un'idea di quello che è stata la sua esperienza in quel territorio. Ok, io ringrazio ancora Flavio Laggia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio, divertiti e buon pranzo. Ciao Beppe, grazie a tutti, buona continuazione e alla settimana prossima. Ciao ciao.